Il punto di Stefano Folli. La riforma elettorale, questo tema ormai indigesto a tutti per quanto è inconcludente il dibattito, è il primo terreno su cui si misura la capacità di leadership del giovane Renzi, il quale ha annunciato una proposta a breve, prima che la Corte Costituzionale si pronunci sulla legittimità del famoso Porcellum. Ebbene, Renzi può favorire un'intesa parlamentare con questa sua proposta. E certo, non per reintrodurre il proporzionale, ma per dare all'Italia un sistema stabile in grado di garantire l'efficienza del governo. Farlo richiede però intelligenza e un minimo di flessibilità. Oppure il sindaco di Firenze può scegliere la strada della rottura, avanzando ipotesi inaccettabili per gli altri partiti. È prevedibile che si manterrà invece nel solco del realismo, perché in un sistema sfilacciato come quello in cui viviamo, questo è il momento opportuno per avere almeno una decente riforma elettorale. Grazie anche alla Corte Costituzionale non è pensabile che si perda l'ultima occasione.